Dunque, io do un consiglio, possono i tifosi della Juve e del Napoli registrare la partita e vedersela, spengere i telefonini perché magari l'amico che la vuole guardare, che allo stadio rimane di sopra, riguardare la partita dopo la fine del festival. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che sono due grandissime squadre, hanno due grandissimi allenatori, sono due grandissime società, veramente è il massimo dell'espressione che abbiamo ora nel nostro calcio, ed è giusto se la giochino loro, e spero che vinca quella che gioca meglio. Ma sabato sera ti porto a ballare e potrò restare con te. Pronostico: la Juve vorrà vincere per superare il Napoli, il Napoli vorrà vincere per staccare la Juve, quindi tutte e due giocheranno per vincere e ne uscirà un pareggio. Io, per essere coerenti, dissi prima in giro andata, poi l'ho ripetuto, io vedo favorito il Napoli quest'anno, non per la partita di sabato ma in generale per lo scudetto. La partita di sabato secondo me non decide ancora lo scudetto, dico Napoli. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ma sabato sera ti porto a ballare e potrò restare. È una tripla, chiaramente la Juventus è sicuramente una più solida sul piano difensivo, è molto concreta, concede pochissimo. Il Napoli forse gioca un po' più aperto, sono filosofie un po' diverse, sono due squadre chiaramente che giocano bene e adesso stanno attraversando un momento particolare di forma tutte e due. Ma sabato sera ti porto a ballare. Questi erano Spalletti, Stellone, Castori e Rea ad esprimere le loro opinioni su Juventus-Napoli. Pierluigi Pardo, ma tu ce lo vedi gli juventini napoletani seguire il consiglio di Carlo Conti? Mi sembra dura. La vedo duretta. La vedo dura, sì, la vedo dura, ma anche perché insomma in quest'epoca qui registrare non mi pare insomma che sia, no? Col cioè, vecchio DVD. Arrivano i tweet in tempo reale, non penso sia possibile. È più probabile che all'Ariston ci possa essere l'effetto tipo film di Fantozzi, che ha fatto palo con gente a un certo punto che esplode durante le canzoni. Sarà divertente seguire anche questo aspetto. Cosa ne pensi, Marta Cagnola, da Sanremo? Buongiorno. Palo. Chi ha fatto palo? Sapete che addirittura, adesso non farò mai i nomi neanche sotto tortura, ho sentito management di cantanti che dicono: vabbè, il mio cantante è un po' in bilico, a questo punto speriamo che venga eliminato, che così mi posso vedere la partita. È successo, non farò mai i nomi, ma l'ho sentito con le mie orecchie. Io immagino allora, anche in sala stampa, nei camerini, televisori dappertutto. Sì, eh? Ma no, ma quello allora ci sono. A volte fronde di colleghi che vanno a vedere la pay TV nei locali qui di Sanremo si informano prima, dove si può direttamente arrivare a metà. Si vede metà che la Cagnola si occupa di rock, la pay TV, vanno a vedere la pay TV. Sì. Ecco, invece altri con tablet e armenicoli vari, e quelli che devono seguire la partita li vedi dall'aria. Scusa, ma la scaletta di sabato quando verrà decisa? Perché diventa fondamentale, nel senso che, con tutto rispetto, fra le 20:45 e le 21:30, le 21:45 e le 22:30. No, la vedo brusca. Sono lì col compasso, il righello, il blocchetto, sono lì a cercare. Però sai cosa c'è? Sapete cosa c'è? È purtroppo inevitabile, non è che si può sapere prima. Quindi, ragazzi, è capitata così. Tra l'altro, io accanto a me ho un super esperto. Lui è il massimo storico del Festival di Sanremo, ma anche un super appassionato di calcio. Quindi io ho accanto a me Di Anselmi, adesso ve lo passo fisicamente al telefono, e gli ho dato un compito, gli ho detto: Etti, ma ti ricordi quali sono tutti i precedenti con sfide sportive e calcistiche importanti sovrapposte alle serate del festival? Gli ho fatto fare i compiti, sì. E adesso vi faccio dire esattamente da lui, Di Anselmi. Vai. Pronto? Ecco. Dica, allora, quali sono i precedenti? Allora, sportivamente c'è cioè lo slalom gigante delle Olimpiadi di Calgary che coincideva con la serata finale del Festival di Sanremo che si interruppe, scese lo schermo gigante e al posto dei, dei numerini del Tutip fecero vedere la, la medaglia d'oro, la seconda medaglia d'oro di Alberto Tomba. Però dura, quello dura un minuto e mezzo, diciamo, una cosa, è un intramuscolo. Dopodiché la, la prima volta che Sanremo si sovrappose a un incontro di calcio era, credo, una semifinale di Coppa Italia del 1990, in una delle prime serate del festival, che andava a confliggere contro Juventus Milan. Il torneo era la Coppa Italia, ma la, la partita era, era, era di gran cartello. Io mi ricordo una volta Caressa che disse: perché San Siro è San Siro, perché c'era tipo Inter Juve in concomitanza col festival, e alla fine disse roba tipo: avete scelto il santo giusto, una roba. Ci fu anche il turno di Champions del 2014 che invece andò a tagliare un po' le gambe al risultato di Auditel, di stime d'ascolto del Festival di Fazio, perché storicamente quando l'anno scorso mi sembra un Chievo-Napoli, un Napoli-Chievo, che però non era una partita di cartello come, come quella di quest'anno, storicamente quando giocava il campionato o quando giocava addirittura la nazionale, il festival si prendeva un giorno di pausa, quindi cominciava il lunedì, c'era il martedì, saltava il mercoledì. Ma qui non ci hanno pensato? Perché cioè sabato adesso, insomma, con tutto l'in bocca al lupo che facciamo a Carlo Conti, però insomma, secondo me un 10% lo perde di share, credo, no? Fra, fra Sky, Mediaset, gente. Credo che l'anticipo, il posticipo fosse stato deciso dopo la data del festival, cioè le partite hanno il giorno della partita è la domenica, e quindi un conto che il festival non confligge con la Champions, un conto il campionato, c'è cioè ogni domenica e qualcosa viene per forza anticipato. Quindi quando Carlo Conti ha visto il risultato, cioè quanto è stato deciso, ha pensato di buttarsi alla fine. Non ha fatto bene al festival. Però insomma, è talmente una cosa grossa che io credo che qualsiasi risultato di Auditel farà sabato alla fine verrà interpretata alla luce del fatto che c'era la partita, quindi da un certo punto di vista qualsiasi confronto con l'anno prima non, è chiaro che perde, ma non c'è dubbio, non penso sia possibile che non perda, no? Mettere un po' di salti in banchi giusto per tirare, cioè fa l'anteprima, l'anteprima. Credo però che andando a ragionare come in termini di Auditel, di stime d'ascolto, la partita, il festival la giochi la prima sera, quindi quello che succede il sabato è già un tirare le somme di una settimana che ha già un suo segno. Sarebbe stato molto molto drammatico se Juventus-Napoli fosse stasera, e allora avrebbe veramente tagliato le gambe a tutta la settimana festivaliera, avrebbe informato un festival all'insegna del, della salita, del recupero. Sabato sì, per quell'ora e mezzo di concomitanza si potrà avere una flessione, però comunque il festival avrà già un segno, sarà già ovvero un successo oppure un risultato al di sotto o conforme alle aspettative. Grazie, bocca al lupo Cagnola. Ciao Marco, il traffico, ma tu te lo vedi sollazzo che è a Sanremo, che ma dai, che non guarda Juventus Napoli, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Non ho certezze, ma ho una sequenza statistica di pochi errori decisivi di Rizzoli sempre in quella direzione, e non soltanto con una o con l'altra squadra. Un arbitro bravissimo si distingue per questo motivo, perché non sbaglia, perché non è scarso. Quando sbaglia... È in malafede. Perché... No, ma non dico che è malafede. Dai. Comunque, questa cosa della fede, malafede e buona fede, dovete farla finire, dovete farla finita nel calcio, di dire non è possibile che nel calcio ci sia la malafede. Nel calcio ce n'è di più che in altre attività umane. Sapete benissimo che nel calcio c'è stata una quantità di partite truccate molto. Direttore, io devo intervenire perché poi torniamo sempre al solito discorso. Non posso, da conduttore di questo programma, far passare l'idea che un arbitro come Rizzoli, oltretutto di livello assoluto, o altri magari meno bravi di lui, possano essere condizionati. No? Che casino. Seratina tranquilla. Vabbè, tristezza. Tristezza sì, perché... No, perché insomma, no, vabbè, la tristezza deriva dal fatto che poi succede che spesso si confonda una persona con l'altra, per cui poi alla fine becco gli insulti come... Ma te che c'entri? Questa è Liguori, tifosissimo un anno fa Nedved disse che Totti non aveva mai giocato in una grande squadra a Tiki-Taka, lo disse un po' sottovoce, non me ne ero neanche accorto tantissimo, e mi hanno fatto un processo perché a Roma, perché Nedved aveva detto questa cosa, quindi diventi nella testa di qualcuno complice di quello che vi ha detto. La verità è che Liguori ieri ha detto una cosa che io non condivido, è stato diciamo contraddetto da me, da Sabatini, da Mughini, da Paragone, che era quello che sentivate lì in sottofondo, dallo stesso Cesari, che ha portato i numeri tra l'altro dal 2008 di Rizzoli con la Juve, sì. Sono numeri tutt'altro che clamorosi, anzi sono sotto media, e in generale secondo me Rizzoli rappresenta, se verrà scelto lui, la garanzia migliore che ci possa essere per una grande partita. Ma tu pensi che dopo questo potrebbe essere scelto un altro arbitro? No, dopo questo cosa? Ma no, ma non scherziamo, veramente. Insomma, non lo riconosciamo. Io penso che Rizzoli arbitrerà questa partita, ed è giusto che lo faccia lui, perché è un arbitro che ha dato ampie dimostrazioni di forza. È un arbitro, secondo me, che garantisce al 100%. E come ho detto ripetutamente anche ieri sera, mi sembra che siamo di fronte, l'ho detto sia in radio che in televisione, lo ribadisco, siamo di fronte a un campionato fino a questo momento di rara tranquillità, veramente di rara tranquillità, perché insomma dirti sì, che sì. No, ne parlavamo credo anche ieri, ma sì, cioè, ormai insomma, l'anno scorso si parla più di conduttori e di scazzi tra conduttori e allenatori che non di arbitri ormai, sì, ma insomma, se ti dovessi dire una partita quest'anno in cui c'è stato per la lotta decisivo. Dell'altissima classifica riguarda Juve e Napoli con qualcosa di clamoroso, di decisivo da una parte o dall'altra, non la trovo. Non quindi poi insomma ieri sera ho detto sta cosa e sembravo un democristiano, ma io la penso così. Io penso che sia un bel campionato, due grandi squadre, abbiamo un arbitro che ci garantisce, secondo me quello che garantisce più di tutti. Poi da questo punto di vista mi fido anche un po' di Cesari, che comunque è uno che gli arbitri per lavoro li controlla di settimana in settimana, e quindi secondo me è una grande garanzia. E ho scritto un post su Facebook, tanto per chiuderla, perché mi è dispiaciuto che indirettamente all'interno di un programma del quale io faccio il conduttore, non l'opinionista, ogni tanto c'è Mughini che dice una cosa, allora mi scrivono da Napoli o da Roma, Auriemma, allora mi scrivono, ieri è successo a Liguori che ha detto una cosa che non condivido, e mi dispiace insomma che ci sia stata questa polemica. Vabbè, dentro ma ci un programma sta anche che di in solito... un programma ti dicano delle cose che non condividi. Anzi, qualche volta è pure auspicabile. Anzi, io voglio riequilibrare la situazione. Non c'ho più il fisico, gente. Ma sì, che ma non c'ho. Dai, sta su, adesso ti porto qualcosa da sgranocchiare. Anche a dieta così. Sarà quello. Io adesso riequilibro la situazione e dico che sono certo che sabato sera ci sarà un clamoroso errore arbitrale a favore del Napoli. Ecco. Insultatemi, dai. 800240024. Tiziano Pieri, buongiorno. Buon pomeriggio a voi. Sento che il clima è già caldo. Abbastanza. Sì, tiepidino. Abbastanza. E la cosa che mi dispiace di più è in questo mi spiace perché non volevo che Tiki-Taka, anche se in maniera indiretta, ripeto, con un intervento di un opinionista che poi è stato contraddetto da molti altri e anche dal conduttore che sarei io, innescasse una polemica su una partita che secondo me è veramente mai come quest'anno arriva in un clima di serenità totale, no? Perché com'è la situazione fino adesso? Ma è assolutamente, diciamo, in linea con quello che stavi dicendo. Quest'anno come non mai forse in un campionato equilibrato, perché negli ultimi anni non ci sono stati campionati equilibrati. La Juventus scappava e quindi per gli arbitri è anche più facile dirigere gare dove non c'è una pressione costante come una partita di questo tipo. Se arriviamo oggi già a fare pressioni sugli arbitri alla prima partita di cartello, vuol dire che la cultura è sbagliata, vuol dire che siamo chi fa opinione, chi scrive sui giornali, chi conduce trasmissione, vuol dire che è sbagliato. Quindi io sono in linea con Pierluigi, assolutamente. Ritengo che l'arbitro, che sarà Nicola Rizzoli, senza dubbio, non perché sia che è nella top degli arbitri italiani, insieme a Orsato e Rocchi, che ha avuto un problema in una maledetta partita, ha sbagliato, però dopo quella partita non ha quasi più sbagliato. Poi l'errore fisiologico dell'arbitro ci sarà sempre, in ogni gara. Ci sono gli episodi e clamorosi dove se si sbaglia. Prendiamo ad esempio Doveri, che è un buon arbitro, e domenica purtroppo ha sbagliato da una parte e dall'altra. Sì, però in questo modo si mette pressione su chi arbitrerà, e devo dire che Liguria va ad uno sgarbo più, forse uno sgarbo più alla Juventus che non a Rizzoli, perché adesso saranno tutti lì a monitorare. Non starei veramente minimamente a gigantire questo. Io penso in assoluto, ripeto, che dobbiamo ricominciare a parlare della partita, cosa che abbiamo fatto ieri, passati questi 10 minuti di bufera, e di parlare della partita dal punto di vista tecnico, convinti che sarà una partita, oltretutto, che arriva a 13 giornate alla fine, non è decisiva, fra due grandissime squadre, con un arbitro che, secondo me, lo ribadisco per l'ennesima volta, è il migliore possibile. Non so se è il migliore al mondo, ma è fra i migliori al mondo. Ha arbitrato la finale del mondiale, l'ha arbitrata benissimo, si è preso i complimenti del mondo intero, e che secondo me dà le piene garanzie. E dal punto è da qui, Pierluigi, che dobbiamo partire. Qua abbiamo un arbitro che ha diretto la finale di Coppa del Mondo e lo stiamo a discutere. Ma stiamo scherzando? Ma di cosa parliamo? Parliamo di niente, perché abbiamo il numero uno al mondo. Poi in Italia allo stesso livello ci sono altri arbitri, uno su tutti, Corsato, perché io lo metterei su tutte le partite, dai bambini alla finale di Coppa del Mondo, perché è un fuoriclasse, è il Maradona degli arbitri. Ma Rizzoli, con un altro modo, forse più adatta a una gara. In cosa sono diversi? A me sembra, insomma, abbiamo affrontato anche spesso questo ragionamento, Rizzoli è più collaborativo, è più dialogante, ma Orsato sì, è un po' più... Rizzoli è stato battezzato un po' scherzosamente da Lollobrigida della RAI, no? In un servizio viene battezzato come il più democristiano degli arbitri, mi fece sorridere, allora lo ricordo. Sicuramente ha un modo e un carattere molto più meno intransigente rispetto ad altri arbitri. La sua caratteristica è quella del dialogo. Dialoga molto, accetta il confronto, magari lascia giocare meno rispetto ad altri arbitri come Rocchi, Banti. Fischia qualcosa in più, e forse in questa partita può essere anche un bene, no? Sì, certo. Il famoso può confronto che ricordiamo bene, di Cesari, sì, no? Sì. E di Graziano, che ricorda Pierluigi. Avevamo i due grandi arbitri che erano Braschi e Collina. Collina era l'arbitro che più si avvicina, perché Rizzoli si avvicina molto a Collina come tipologia di arbitraggio, e Orsato forse ricorda molto più Braschi. Ecco, questi due mostri sacri del mio passato che ricordo. Ecco, possiamo definirli così: Rizzoli molto più vicino a Collina e Orsato molto più vicino a Braschi, che poi sono due tipi di leadership diverse, nel senso che l'arbitro ovviamente è il leader in mezzo al campo, perché è lui che prende le decisioni, ma questa leadership la può esercitare in una maniera, diciamo, un po' più autoritaria, un po' meno dialogante, oppure invece un pochino più collaborativa con i giocatori. E devo dirti che da questo punto di vista a me piace più Rizzoli, anche se Orsato secondo me è un grande arbitro, assolutamente, però Rizzoli secondo me mi sembra che abbia più dialogo con i giocatori, abbia la capacità in certi momenti anche di saper interpretare un pochino meglio la partita, e quindi di adattare lo stile di arbitraggio al tipo di contesto, che è importante secondo me soprattutto nelle grandi partite, no? Perché le partite non sono tutte uguali, o no? Certo, no, certo. È vero. Aspetta, è vero. Tiziano, io ho anche alcune cose da sentire interessanti. Montella su Rizzoli. No, Rizzoli dà tranquillità a tutti, insomma, anche quando sbaglia. È molto pacato e sa anche aspettare quell'attimo che lo fa scegliere bene. Non è permaloso? Credo proprio di no. Ecco, poi c'è anche Olivieri, che ha detto una cosa che io credo preoccuperà un po' tutti quelli che, anche Cesare, quelli che in TV parlano di arbitri moviole. Olivieri? Ma il percorso è semplice per noi, è ritornare a parlare di calcio, che è quello che è il nostro mestiere, questo. Quindi evitando di entrare nel mestiere degli altri, andare ad insegnare come si fa ad arbitrare, anche come si va fare il giornalista o come si va a fare il vigile. Insomma, noi potremmo parlare del nostro mestiere anche con possibilità di giudizio sull'operato degli altri, ci mancherebbe, non sugli arbitri, abbiamo deciso, però in un confronto che deve essere civile. Quindi allenatori che non parleranno più di arbitri, chi ci crede alzi la mano. Io non ci credo, però devo dire la verità che quest'anno è un anno buono, quest'anno si è parlato più di cose, diciamo, fra le cose extra calcio, si è parlato poco di Moviola. Si è parlato molto ultimamente di linguaggio, il famoso finocchio del dito medio, ma di episodi arbitrali se ne è parlato poco. Si è parlato un po' di dopo Napoli-Inter con Mancini, con il discorso dell'espulsione, ma sa, poca roba. Ecco, il campionato scorso era iniziato a ottobre, sappiamo come, con un arbitraggio discusso che aveva avvelenato subito i pozzi da una parte e dall'altra. Quest'anno mi sembra che veramente invece siamo in una situazione molto positiva, quindi insomma io credo e spero che tutto andrà bene. Tiziano, ti chiedo ancora questo: se davvero gli allenatori non parlassero più di arbitri, cosa che mi sembra surreale, è impossibile, forse Olivieri ha voluto insomma scherzare, no, è impossibile impossibile fino al ci rivediamo. That's al prossimo true. Errore al prossimo errore arbitrale. Però fammi sottolineare l'ultima cosa, che il mondo arbitrale è sempre quello più equilibrato, e mi piace sottolinearlo sempre, perché non c'è mai una polemica agli arbitri. Mancini si giustifica dicendo che era sotto pressione perché c'erano persone che le insultavano, quindi tira sul dito medio e attacca Sarri. Gli arbitri vengono quotidianamente, ogni gara, ogni settimana insultati, e hanno sempre una concentrazione sul pezzo della gara fondamentale. Forse Mancini non è molto concentrato su quello che sta facendo, ed è questo il modo, perché io non sentivo gli insulti fuori se ero concentrato sulla partita, ed è questo che gli arbitri fanno. Tra l'altro, concentrate e non raccolgono mai provocazioni. Tra l'altro c'è sempre quel discorso che fa un po', se vuoi, retorica, ma è così, che poi ci sono gli arbitri che non è che hanno la scorta o non hanno le telecamere o non hanno la visibilità, che arbitrano delle serie minori, in posti delle volte anche pericolosi o comunque insomma, quindi la cultura del sospetto non aiuta, ma insomma questo è un vecchissimo discorso, soprattutto non aiutano i processi alle intenzioni. Ci sono paesi dove l'arbitro non sai nemmeno chi è, vai allo stadio non sai. I problemi sono i processi alle intenzioni. Detto questo secondo me, tanto per essere chiari, la Moviola ci sta, è un pezzo della storia del nostro paese. Si discute dopo 30 anni di Turone o del rigore della lotta Juventus-Fiorentina 30 anni dopo, e questo ci sta, è anche sfottò e anche allegria, ma farlo preventivamente mi amareggia molto. Grazie Tiziano, alla prossima, buon lavoro, forza, torniamo subito. 800 24 00 24, ce ne sono già tanti. Ma scusa Pierluigi, per sdrammatizzare, Juventus-Napoli non possiamo farla senza arbitro, l'unica. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Si ricomincia dunque, nuovo caso Pulcinella Tiki-Taka. Ah è vero, c'era pure Pulcinella. Poi, che altro c'era? C'era Nedved, l'abbiamo ricordato? Pulcinella assomiglia, perché in effetti lì era Mentana che aveva detto una cosa a Lauriemma e a Napoli se la Napoli mica male, sì, le bombe di Tiki-Taka, le bombe di Tiki-Taka. Umberto, sto vedendo qua, però non sono quelle di Tiki-Taka, prego Roberto. Sì, pronto, mi sente? Sì. Dica. Grazie di aver provocato. Allora, due cose. Io ieri sera ho seguito il programma di TAC e Liguori per me è una persona poco seria, perché già nel pomeriggio lui aveva pubblicato su TGcom le stesse frasi che aveva detto la sera. Primo. Era Kiss, credo fosse Kiss Napoli. Comunque. Vabbè, non importa. Anche il presidente Malagò è giocatore del Napoli, e altre persone dicono che non è giusto che le tifosi del Napoli non vanno a Torino. Però quando c'era la Juve a Napoli, il presidente Malagò non ha detto questo. Adesso vi ascolto per radio, grazie di avermi convocato. Sì, semplicemente secondo me ognuno è responsabile delle opinioni che esprime. Ma guarda, io credo che ieri a un certo punto, poi all'inizio Liguori aveva anche detto che non c'era la certezza matematica, lì poi si è annodato a un certo punto su un concetto. Infatti mi ha dato un po' del democristiano a quelli che dicevano, che sostenevano. Era diventata quasi una battaglia fra il politicamente corretto e il non politicamente corretto, cioè il fatto di poter dire certe cose oppure di non poterle dire. Però la verità, secondo me, è che qui c'è un problema di forma e un problema di sostanza. Il problema di forma è che creare veleno prima di una partita mi sembra assurdo. Il problema di sostanza è che poi l'arbitro in questione, cioè, non è l'arbitro scarso, è un arbitro ottimo, quindi ringraziamo Dio di avercelo. Ringraziamo Dio di avercelo. Se ci fossero stati, come ci sono stati nel passato in alcuni campionati, degli episodi che possono farti pensare male o una sequela di errori, quello è un altro discorso. Ma questo è un campionato ad oggi di una serenità inaudita. Ma vedi, c'è un assioma, come scrive un ascoltatore, gli anti-juventini che esistono avranno sempre questo tipo di sospetto, ce l'avranno sempre. Per sì, qualunque arbitro fischi la Juventus anche una grande partita, è inutile star lì. È una forma mentis, andrebbe eliminata, ma è una forma mentis che esiste. E io penso anche, come per esempio ha detto spesso Mughini, ma come anche gli stessi giocatori della Juve ti raccontano magari in privato, che questa è anche un po' una forza della Juve. Cioè la Juve sa di essere la squadra più amata e più odiata d'Italia. E di questa forza psicologica, caratteriale, ha costruito parte dei suoi successi. Quindi questo, da questo punto di vista, secondo me non è mai un problema della Juve il fatto che esistano tanti anti-juventini. Questo è dato di fatto ed è dovuto al fatto che la Juve è la squadra che in Italia ha vinto di più e quindi da un punto di vista proprio direi quasi matematico, aritmetico, si è poi si c'è è anche modo e modo per essere anti-juventino. C'è anche modo e modo. Alessio, provincia di Modena. Grazie per la convocazione, buonasera. Come va? Bene, bene. Sei allora, d'accordo con Paolo Daschio che dice che dovrebbe arbitrare la Papa Francesco? Pensa poi se sbaglia un rigore. Però. Volevo ringraziare Pierluigi perché lo seguo su Facebook e ho anche condiviso il suo post perché io da juventino, guarda, ormai non ce la faccio più, sono davvero schifato perché ogni volta che c'è una partita importante della Juve salta fuori qualche personaggio. Alla fine sono sempre i soliti, comunque. Se mi viene detto dal mio amico al bar interista napoletano e metto a ridere, ci prendiamo un caffè, siamo a posto. Ma detto da un personaggio pubblico, guarda, è proprio una tristezza unica. Tra l'altro Malagò si dimentica, anzi, avrei voluto che fosse stato in tribuna di fianco al settore ospite l'anno scorso, quando volavano i rubinetti, spaccavano la testa dei bambini. Di queste cose non ne parla mai nessuno, allora siamo a posto. Con il fatto del Vesuvio qua ci dimentichiamo le cose che succedono. Beh, io, sinceramente, 10 persone in ospedale l'anno scorso mi ricordo che ne abbiamo parlato dei tafferugli al Juventus Stadium nel settore ospiti e parliamo però anche di quando c'è la discriminazione territoriale nei confronti dei tifosi del Napoli. Io ho un approccio laico alla vita, amico mio, quindi poi alla fine penso che il bene e il male non stanno dalla parte di una squadra piuttosto che di un'altra. Quando uno si comporta bene si comporta bene, quando si comporta male si comporta male, e questo insomma le persone per bene sono tutte della stessa pasta indipendentemente dalla squadra per la quale fanno il tifo. È quasi banale dirlo, e poi chiaramente insomma ci sono opinioni, le opinioni spesso sono forti, portano a un contraddittorio, però in certi casi sono d'accordo che possono creare polemiche gratuite delle quali non c'è bisogno. Non condividerò mai l'assioma secondo cui queste polemiche possono accendere dei fuochi tra i tifosi, perché no, io non se penso. Uno si fa prendere in mezzo da delle parole vuol dire non che penso, però per esempio passa ad altre vie vuol dire che ha già qualcosa di malato in sé. Certo, quindi. Però io ti dico che quando ci sono dei problemi, come per esempio ci sono stati problemi ad aprile, dopo gli striscioni all'Olimpico, fra tifosi della Roma e del Napoli, secondo me chi fa comunicazione deve provare, nei limiti del possibile, a proporre delle opinioni ovviamente anche discordanti, ma che il confronto sia leale. Questa mi sembra la cosa fondamentale, perché altrimenti sicuramente il 99,9% dei tifosi vivranno questa partita con lo spirito vero da sfottò e basta, però poi c'è sempre quello 0,01%, quindi io non vorrei che Ciccio Graziani si arrabbiasse con Mihajlovic perché l'abbiamo fatto aspettare qualche minuto. Sì, fra l'altro c'è uno che mi scrive. È un piacere, l'unica cosa che vi posso dire è che sono un po' arrabbiato con voi due perché io avevo un mister straordinario che adesso non c'è più, che gli mandiamo un grande abbraccio, che era Enzo Belzotte, che mi convocava sempre per 8 anni, ma sempre convocato. Voi invece mi convocate una volta all'anno e questo sinceramente un po' mi fa. Ma tu manda un messaggio, qua la convocazione è libera. La convocazione non è vero, è libera. Ciccio, non è vero. Non posso chiamare io per dire mi convochi. Esagerare, però sei un campione del mondo, questo non va dimenticato. Ecco, questo mi fa piacere. Ogni tanto ricordatevelo. No, ce lo ricordiamo tutte le volte, Ciccio, e lo ricordiamo tutte le volte. No, scherzo Carlo, scherzo, se ci mancherebbe. Senti, proviamo a parlare di calcio. In cosa sono diverse queste due? Che sono bellissime tutte e due. Un pochino diverse, ma neanche tanto. Nel senso che poi alla fine si può dire che il Napoli è un pochino più spettacolare, che la Juve è un pochino più solida, ma mi sembrano proprio dettagli. Cioè, il Napoli è comunque solido e la Juve è comunque spettacolare. Sì, no, poi considerando che il Napoli ha avuto anche meno infortuni, quindi ha quasi sempre giocato con i titolaristi, mi cambia poco il Napoli, mentre invece la Juve, in virtù anche di tanti infortuni, ha cambiato molto e poi ha avuto questa brutta partenza ad handicap che gli ha condizionato un po' tutta la stagione, ma per fortuna per i tifosi della Juve e per la squadra queste 14 vittorie consecutive l'hanno riportata al vertice della classifica, con la possibilità anche quest'anno di giocarsi la vittoria per lo scudetto, quando credevamo e pensavamo che quest'anno fosse appetibile per altri club. Invece la Juve, come al solito, è tornata prepotentemente. Però devo dire che il Napoli quest'anno mi piace da morire, perché ha una sua identità, ha una sua forza caratteriale, gioca bene. E un altro aspetto mi ha fatto particolarmente piacere domenica, all'errore della non di Doveri, perché tanti dicono ha sbagliato Doveri, ma ha sbagliato l'assistente sul gol di Calleione, non Doveri. Certo. Non c'è stato un assedio all'arbitro o all'assistente, perché in effetti forse anche in campo si erano resi conto che se ci fosse stato o non ci fosse stato il fuorigioco era questione di centimetri, e allora magari in altre circostanze sarebbe successo qualcosa di diverso. Invece questo dimostra che anche il Napoli ha acquisito una maturità positiva. Benissimo, Ciccio, fermiamoci un istante per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Torniamo con Ciccio Graziani, di cui leggo un'intervista oggi sulla Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina, una delle squadre in crisi, inspiegabilmente. Mi sembra una crisi interna, più una crisi di nervi, più una qualche incomprensione che una crisi reale di classifica, perché è lì terza bella come il sole. Ma stiamo scherzando, ma la Fiorentina è terza in classifica, un piccolo miracolo anche quest'anno, ne ha già fatti negli anni passati. Allora perché sono tutti così nervosi a Firenze, Ciccio? Ma perché sono masochisti a Firenze, è una cosa. Qua a Firenze tu vinci 2-0, vorrebbero vincere 3-0. Hanno una squadra meravigliosa che sta giocando bene anche quest'anno, e polemica non finire. Non piace il calciomercato all'inizio della stagione, non piacevano i movimenti della società e non piace della Valle. Ragazzi, io anche l'altro giorno ho detto a qualcuno: datevi una calmata, perché se no non vi godete tutto ciò che bravissimo. Questo momento la Fiorentina vi sta regalando. È una pazzia. A me non è tifoso. Però volevo tornare sulla partita di domenica, Carlo, sì, e dirti la differenza. La Juve è una squadra tosta. Io l'ho combattuta per tanto tempo, e è stato anche un onore e un piacere farlo, ma è una squadra che ha carattere, ha personalità, è abituata a giocare a questi livelli. Queste partite, gli approcci sono quasi sempre positivi. E di contro invece c'è una squadra che, come il Napoli, che mi entusiasma, gioca bene, sono bravissimi dietro, hanno dei meccanismi difensivi collaudati, in mezzo al campo hanno qualità e davanti sono temibili, perché il Napoli ogni domenica crea almeno 7-8 palle da gol, e poi ha un attaccante che appunto, in questo momento, è il più forte al mondo, perché quello che sta facendo ha del sovraumano. Ecco, l'unica cosa è capire sabato l'approccio alla gara del Napoli. Sì, è vero. Lo Juventus Stadium diventa condizionante, crea delle difficoltà a livello psicologico, a livello di impatto alla partita. Ecco, l'unica cosa che potrebbe preoccupare un po' è questa, perché poi si affrontano due squadre e oggi dovessimo esprimere un pensiero nelle percentuali del risultato, diremmo una trilba, perché qui può succedere di tutto sabato sera. Sì, detto che la Juventus ha un risultato solo a disposizione, che deve vincere, mentre il Napoli ne ha due. E qualche volta, Carlo, è un vantaggio, mentre è uno svantaggio per le squadre che partono dicendo: beh, abbiamo due risultati su tre. Quando giochi per pareggiare è la volta che perdi. Un altro vantaggio che secondo me sulla carta almeno potrebbe sembrare è quello che la Juventus in questo periodo non sta giocando molto bene. Se era un mese e mezzo fa era diverso, non sta giocando molto bene le ultime due partite, ma vedrà che quella la gioca alla grande. Io ho fatto Chievo-Juve, che era 10 giorni fa, e mi è sembrata le ultime due un po' bene, le ultime due con Genova e Frosinone effettivamente un po' al di sotto, anche se ogni partita ha la sua storia. Però devo dire che i tanti infortunati, non si sa se recupera Mandžukić, forse sta recuperando Khedira, poi a fuori un guerriero che non tanto per la bravura tecnica, ma perché a quella difesa dà quella credibilità, quella sì, forza, sì, quella spirito, personalità, che, certo. Senza Chiellini. No, ma anche Khedira, secondo me, è decisivo. Anche Khedira, sì, chiaramente. Però vedi che quelli che entrano riescono sempre a dare qualcosa in questo bravissimo Allegri. No, su questo non c'è dubbio. Però l'assenza anche di Chiellini potrebbe addirittura indurre Allegri a cambiare assetto tattico, a giocare a 4, e questo di per sé è già una virgola di handicap che... Se non ci fosse stata molto probabilmente. Sì, certo, la Juve è una squadra matura. Senti, anche per questo. Che succede al Toro invece? Appunto, che altro esempio di masochismo. C'è una spiegazione? È come a Firenze, mi sembra. Ma peggio, il Toro sta perdendo peggio come risultati, è sì. Chiaro. Però una contestazione a un allenatore, a una società, a un club che ha fatto quello che ha fatto fino adesso e che è lì un po' meno di metà classifica, a me sembra surreale pure. No, sono d'accordo, ma tutto è nato purtroppo da quel 4-0 indecente che la squadra ha subito in quella maledetta partita di Coppa Italia. Da lì sono nate un po' di polemiche, un po' di disamore, un po' di tutto, e i risultati poi successivi della squadra non hanno aiutato a ritrovare serenità. Il Toro sta facendo il suo campionato, ragazzi. Certo. Quando non lotta per non retrocedere e sta in una posizione di classifica che ti lascia tranquillo, sì, però dicendo, lo spirito del Torino degli ultimi anni, quello straordinario, quello delle grandi imprese, mi pare che negli ultimi due mesi sì. Dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Juve non si è visto più il Torino. Pier sta costruendo una squadra molto progettuale, ma quello sì, e quindi Cairo, cioè, mette in discussione Ventura. Allora, per me Cairo ha fatto un lavoro strepitoso, nel senso che comunque in questi ultimi anni ha venduto a prezzi alti, ha comprato a prezzi bassi, ha comprato i giovani, cioè proprio voto 10 secondo me come programmazione. Dal punto di vista dei risultati in campo, fino a due mesi fa era una squadra tosta, compatta, sembrava il Toro, e oggi no, questo è oggettivo, insomma, non si può non... Poi la classifica è tranquilla, ha ragione Ciccio, però insomma che qualcosa sia cambiato in peggio mi sembra evidente. Può capitare, no? Soprattutto quando è una squadra giovane e quando hai qualcosa da costruire, può capitare. No, ma poi Giampiero è bravo, è un professionista serio, ci mette passione, ci mette entusiasmo, vive di pane e pallone, però evidentemente questa è una squadra che non riesce a mantenere l'attenzione, la concentrazione, l'entusiasmo, la voglia di primeggiare con una certa continuità. Prima pensavamo che il problema serio fosse soprattutto in attacco, perché in attacco da Maxi Lopez, Martinez e Quagliarella si alternavano, poi un po' Belotti, si concretizzava poco. Con l'arrivo di Immobile e le prestazioni migliori di Belotti sembravano aver dato un'inversione di tendenza, invece purtroppo non è così, perché ci sono troppi alti e bassi, e quando è così anche per un allenatore è difficile, certo, difficile incidere sulla squadra. Grazie Ciccio. Grazie Ciccio, alla prossima. Quando vuoi, manda un messaggino. Sei convocato tutti i giorni, fosse per noi, tutti grazie i giorni. Ragazzi, convocato. Un abbraccio. Ciao Ciccio. Fausto Torino. Buongiorno. Buongiorno. Mi avete rubato tutte le parole. Argomentazioni di buon senso che avevo in mente. Due cose, se mi permettete, mi sono rimaste però. La prima è la soluzione che suggerisco, cioè che auspico per l'arbitro domenica, cioè sabato, e mi auguro che la Juve perda, il tifoso della Juve, in caso contrario sicuramente un episodio determinante verrà in qualche modo trovato, scovato e dibattuto a lungo. Non è detto, non tiriamocela addosso. Le ultime vittorie della Juve col Napoli allo Juventus Stadium sono state tutte vittorie molto larghe, fra l'altro, quindi non è detto che succeda di nuovo. Mai come quest'anno mi sembra una partita veramente equilibrata, ma insomma adesso sperare che la squadra perda, perché sennò chi se ne parla mi sembra un po' tardito. Poi la seconda cosa, non sono d'accordo per una volta col dottor Genta quando dice che le opinioni di un giornalista anche autorevole non facciano opinione tra i tifosi, e questo lo dico proprio perché ascoltando la vostra trasmissione mi rendo conto che voi scegliete una linea completamente diversa. Sì, ma non è questione di fare questione di fare o non fare opinione, però secondo me l'equazione quelli hanno incendiato l'ambiente, hanno fatto innervosire tutti, usciamoci e ci suoniamo. Ragazzi, anche in questa trasmissione, diciamo, autodenunciamoci, anche in tutti i convocati ogni tanto abbiamo sentito delle, no, delle uscite al limite. Vabbè, no? Se no, ecco. Se no che, perché? Cioè, perché il calcio è così, gli opinionisti sono così, dicono delle cose e poi ogni tanto a qualcuno gli parte pure la ciabatta, no? Cioè, quindi, ecco. Però poi la sintesi la si trova nella molteplicità delle opinioni, questo è il concetto. Se poi in un programma televisivo, radiofonico, su un giornale leggi solo pareri che vanno in una direzione, allora lì c'è un problema. Certo. Ma se senti cose diverse, no? Poi nello specifico qui mi sembra che stiamo parlando del nulla, perché stiamo parlando di un grande arbitro, quindi torniamo per GR, torniamo subito. Saluti tutti convocati. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al Mudec di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Oh, I love you, Ken. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Oggi veramente tutti convocati, c'è cioè qui per Luigi Pardo. Beninazzo, è arrivato il professor Beninazzo. Come va? Eccoci, buonasera a tutti. Beh, come va? Guardalo lì, è uno straccio. Bene, bene, un po' di tensione. Uno straccio, Piero. Che domande sono? Che c'hai? Aspetta. Beh, no, l'influenza di stagione. Ma che influenza di stagione? L'influenza di stagione. È Napoli, è Juventus-Napoli che incombe, no? Ma sì, mi pare che ci sia questa partita. Io però guarderò Sanremo, vorrei tranquillizzare Conti. Beh, noi poi abbiamo un rapporto con Enrico Ruggeri. Il Falco, il Gabbiano. Sì, quindi guardiamo tutti Sanremo. Tutti Sanremo. Sì, poi la registro, poi adesso le 2-3 di notte. Sì, sì, sì, credici. Deve essere bello andare a Sanremo. Io sono molto invidioso della Teresa Cagnola. Sì. Secondo me è divertente. Grandi... Ma va a Sanremo. Ho capito, non c'ho da fare. Ma va. Andrei stasera, vabbè, dai. Senti, ma dimmi innanzitutto di questo boom della Cina che avevi preconizzato in Goal Economy. Beh, sì. Cioè possiamo andare anche noi? Cioè, noi siamo pronti, oltre che per Sanremo... Avranno bisogno anche di giornalisti, di telecronisti. Bisogna parlare un po' cinese, un po' mandarino. Non so come siete messi. Io preferisco sempre Monza, però comunque... non è che la sottovaluto la Cina, però potendo scegliere Calacecato. Beh, comunque... Devo dire, questa lunga marcia del calcio cinese per precisi indirizzi politici, insomma... Ne avevo già scritto in Goal Economy, sinceramente non mi aspettavo che prendesse così velocemente piede. Il fatto che la Lega cinese abbia superato la Premier League nei conti del calciomercato e che abbia speso da solo più di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1 messe insieme ci fa capire, insomma, che sta completamente cambiando lo scenario, il rapporto di forze. Ed è una cosa seria, non è un fuoco di paglia, non è per dire il campionato americano degli anni 70. Ma la bolla scoppiata sui mercati può incidere? È vero che è scoppiata un po' ovunque, però la Cina è stata, se non sbaglio, una delle prime guarda, a crollare, no? Pier, quello più riguarda più i risparmiatori, insomma, e coloro che avevano appunto investito nelle azioni illudendosi che potesse crescere a dismisura il mercato azionario. Le grandi aziende, quelle che lo Stato ha messo a presidio del calcio, non hanno di questi problemi, e i 300 e passa milioni che hanno speso che lo Stato ha messo a presidio del calcio, perché ricordiamoci che è un'economia di tipo... Sì, è sempre strano parlare della Cina, un partito comunista cinese. Ricordiamoci la foto del premier cinese che arriva in Inghilterra, chiede a Cameron, al premier britannico, come prima cosa di andare a visitare la cittadella del Manchester City, e si fa un selfie con Aguero e lo posta in tutto il mondo. Quindi abbiamo capito che tra un po' Pardo deve andare a fare le telecronache del campionato diciamo cinese. Che, sinteticamente, questa rivoluzione si sta muovendo su tre direzioni. Acquisto di squadre in Europa, Manchester City, Espanyol, Atletico Madrid, acquisto di grandi giocatori europei, brasiliani, sudamericani per abbellire il campionato cinese, Terzo luogo, acquisto di società che intermediano i diritti TV nel calcio, vedi Infront, e vedi questa Media China Capital, che è una società di intermediazione dei diritti TV che ha appena comprato i diritti del campionato cinese e che ha fatto un accordo con tale Jorge Mendes, non so se qualcuno di voi... E la sua, no, il nome non mi è nuovo, quindi sì, il procuratore più importante del calcio mondiale, ma sei un debuttante, diciamo, ecco, un debuttante 21, allo sbaraglio, sì, che ha fiutato quello che sta accadendo e pare abbia già in programma tantissimi investimenti soprattutto per aprire scuole calcio in Cina, e lì insomma ce n'è. Quanti cinesi che non arrivano invece a Milano? Ci sarebbe sempre il Milan. Quali sono le ultime? Come ho scritto la scorsa settimana, il bollettino Milan ci dice che c'è una frenata sul fronte di Mr. B, non ha trovato i 480 milioni, o perlomeno, ricordandoci sempre degli equilibri politici, che deve come dire, rispettare l'offerta di Mr. B, non si è riuscito a trovare la quadra per mettere insieme un gruppo di investitori che siano disposti ad accettare un percorso difficile, che è quello dell'acquisto della minoranza e poi passaggio in borsa per acquisire la maggioranza, B, che siano contemporaneamente graditi al governo di Pechino. Quindi la difficoltà, il Partito Comunista Cinese non è un monolite, pensiamo solo al PD e quante divisioni ha, e immaginiamoci in Cina quante dici che c'è l'impressione che Maiolino, ecco, a parte che c'è stata la polemica sulle primarie dove abbiamo votato anche i cinesi, lì non le fanno, insomma, in Cina le primarie sono molto più come dire semplici e pragmatici, ecco. Sì. Detto questo, al momento sul tavolo di Mediaset c'è un'altra offerta sempre di un gruppo cinese. Questo gruppo cinese si era fatto avanti praticamente prima dell'estate, quando sono iniziate a sorgere le prime difficoltà di Mr. B, però questa trattativa, ecco, vorrei precisare, siamo a uno stato assolutamente embrionale, la manifestazione di interesse, non c'è nessuna questione relativa a soldi da mettere sul piatto. È chiaro che quest'altro gruppo cinese naturalmente preferirebbe comprare la maggioranza del Milan. Ti faccio la domanda, ma adesso sono passati 7 mesi da quando è cominciata questa cosa, sì, anche di più. Ecco, ma l'uomo della strada che deve pensare? Che è tutto un bluff, oppure in realtà invece che insomma ci sta, che possa essere una trattativa complessa? Io, come dire, come sapete, l'ho seguita da vicino e con molte difficoltà. Ho parlato insomma con persone, professionisti di primo livello che stanno seguendo questa trattativa, non quelli di Lugano, da cui è partita, diciamo, l'inchiesta della Procura di Milano, tanto per intenderci. Ci siamo, diciamo, dal punto di vista, a mio avviso, della serietà della trattativa, anche del valore del Milan. Il Manchester City è stato valutato 3 miliardi dai cinesi con l'operazione realizzata pochi mesi fa. Manchester City, il Football City Group. Quindi se diciamo quello vale 3 miliardi, il Milan può valere. Potrebbe valere, ovviamente, non se andiamo a guardare i fondamentali di adesso. È chiaro che non li vale se ragioniamo in termini puramente, come dire, aziendalistici e sul presente. Se però pensiamo a quello che sta accadendo in Cina, e quello è il mercato di riferimento. Insomma, la forza è il marchio, il valore intangibile, assolutamente, no? Che hanno le grandissime squadre. E paradossalmente il Milan, essendo anche associato al brand della città di Milano, vale molto di più di altre squadre, anche rispetto al brand Juventus o al brand Inter. È semplicistico dire, ma in una popolazione, diciamo, molto amante del calcio ma poco acculturata, certo, è molto più semplice, certo, pensare al Milan anziché all'Inter, perché l'identificazione viene come dire automatica, e quindi c'è questo percorso a ostacoli in cui chiaramente ci si scontra anche con le dinamiche interne alla Fininvest, agli equilibri familiari, per cui si sapeva che non era una trattativa semplice. Io diciamo non penso che ci sia un bluff, che siano soldi di Berlusconi che rientrano, come si è tanto raccontato, anche perché se non si hanno le prove è meglio non dirle, almeno certe cose lo possono dire, si può dire al bar, ma esatto, e questo noi giornalisti non possiamo, al momento un non possiamo dirlo. Senti, vediamo quello che succede. Mentre ti prepari a spiegarci cosa ci farà Tuir a Milano, se magari andrà anche a parlare con Mancini, io convoco Mariano da Piacenza. Pronto? Mariano, come va? Ciao. Grazie di darmi questa possibilità di parlare in diretta anche con un mito come Bedinazzo, per noi tifosi del Napoli. Volevo dire due cose. Ma è come Carlo Alvino, è come Auriem, eh? No, non tocchiamo i nostri sacri. Come De Luca. Bellinasso è il top. Sono d'accordo che quando dice che De Laurentiis deve aumentare le strutture per essere competitivo come la Juve. Quindi sta parlando come Sarri, quindi sarà la partita del fatturato, non credo. No, la partita secondo me è bellissima e dobbiamo cominciare a essere veramente sportivi, basta arbitri, basta, sarà una partita stupenda. Io sono tifoso del Napoli, ho solo un rimpianto e secondo me è una sconfitta del calcio italiano, che sia a Napoli sia a Torino i tifosi delle squadre ospiti non possono andare. E questo secondo me è una sconfitta. Sì, sono d'accordo su questo. Sono d'accordo, ma lo diciamo tutte le volte. Cioè, non c'è dubbio. Il divieto della trasferta, al di là del fatto che... No, è una questione di quieto vivere. È chiaro, sì, che di fronte al rischio di ordine pubblico, molto meglio così, però è una sconfitta. Cioè, dal punto di vista culturale, del sistema calcio, della società italiana, l'idea che non si possa avere una convivenza pacifica dentro lo stesso stadio, di tifosi in certe partite, mi sembra veramente... proprio un insulto a quello che siamo, però ecco, prendiamone atto, insomma. Beh, ma forse l'insulto a quello che siamo ce lo siamo anche meritati nel corso del tempo. Sì, purtroppo. Sì, no, sicuramente. Purtroppo anche perché è una cosa che succede qui da noi e da lo spettacolo di City Leicester con meraviglioso. Vabbè. È stato bello anche perché c'erano tifosi dell'Estel a festeggiare. Come chiamo Mancini, certe cose in Inghilterra non sarebbero successe. Una volta che sento parlare di Inghilterra, mi viene in mente Mancini. È vero. A proposito di Mancini, arriva Tohir che gli dice: ragazzo, se non arrivi terzo sei fuori? Vieni nominato? Credo, ma credo che ci sia, insomma, un allarme che sta suonando in casa Inter. Il progetto, diciamo, di sostenibilità prevede l'Europa League, quello che è stato presentato alla UEFA. È vero anche che l'Inter ha speso molto in estate sul calciomercato, insomma quello invernale si è chiuso, come sappiamo, in pareggio, e quindi è fondamentale, lo abbiamo detto tantissime volte, che l'Inter approdi in Champions per dare continuità al progetto. Se non approda non è che l'Inter fallisce, però è chiaro che la situazione finanziaria comporterà drasticamente una revisione del progetto e un allungamento dei tempi. Ma con la storia di Moratti che esce, Tohir sul fronte societario, perché io ho letto anche che potrebbe essere pronto a vendere la sua quota di maggioranza. Tecnicamente lui aveva garantito 3 anni di finanziamento all'Inter, in realtà ha solo prestato soldi, oltre 100 milioni, e non ha messo capitale, insomma, nell'Inter, a parte 70 milioni quando l'ha preso. C'è una situazione, è chiaro, di stallo, per cui nel momento in cui si arriverà in Champions io credo che Tohir metterà mano al portafoglio e rinforzerà la squadra, allora tutto diviene in qualche modo praticabile, anche questo piano di rilancio, l'internazionalizzazione del brand e quant'altro. Se l'Inter non dovesse andare in Champions, chiaramente Moratti potrebbe avere ancora più incentivo ad uscire, ma il problema è capire chi compra quelle quote, perché Tohir avrebbe un diritto di prelazione, ma non le vuole comprare. Ma credo di no, insomma, già 70% non gli serve l'altro 30%. Gli servirebbe qualora, come dire, l'Inter vincesse, si ponesse anche per l'Inter la possibilità di una quotazione tra qualche anno in una borsa asiatica, c'era questo nel business plan di Tohir. A quel punto chiaramente avere un 30% più da mettere sul mercato gli permetterebbe di rientrare clamorosamente nell'investimento. Sì. Ma qui il campo, come dire, detta anche l'agenda finanziaria, e dunque credo che Tohir venga per stare molto molto vicino a Roberto Mancini, insomma, per cercare di pressione su Mancini. Se no, Pierluigi, serve il solito tartaro che non è mai arrivato, cioè quello che mette un sacco di soldi per non contare un cazzo. Sì, che poi adesso tu l'hai detto così in maniera molto francese, credo sia stato a un certo punto poi il problema delle offerte per il Milan, no? Le offerte del Milan non si sono concretizzate, perché poi di fondo Berlusconi ha sempre voluto mantenere questo benedetto 51%. Se vi ricordate il primo maggio, il colloquio serale si era chiuso con l'accordo per la cessione del 51, la mattina dopo Berlusconi si è presentato, ci ha ripensato, è andato all'hotel con mister B non capiva bene esattamente quello che è successo. Di fatto Berlusconi ha messo su piazza, insomma, che tu hai mai visto uno che, hai mai visto uno che entra in minoranza? No, cioè, infatti no, uno ci può anche entrare in minoranza, ma se paga una certa cifra per prendere il 49, forse no, non c'entra. Ma evidente, ma uno può entrare perché può anche da un 20%, però paghi il 20% e fa il socio di minoranza, ma entrare al 49 è ma abbastanza deve avere interessi, deve avere interessi diversi o comunque avere un percorso chiaro, che era quello. Ecco, qui c'entrano le fibrillazioni nei mercati asiatici. Cioè, io il discorso era, abbiamo detto più volte, compro il 48, tra due anni mettiamo sul mercato il 15 a testa, 15% a testa, io compro il tuo 15 e divento socio di maggioranza. Tu a quel punto, se ti conviene, tu dico Berlusconi, Fininvest, vendi tutto se la quotazione è alta, oppure vendi una parte, poi aspetti. Di fatto la cordata non avrebbe mai dovuto pagare un miliardo per l'intero Milan. La cordata pagava intorno ai 500-600 milioni per poi, diciamo, acquisire sul mercato quella quota di azioni che gli permetteva di avere la maggioranza assoluta o relativa e comunque di avere il controllo. È chiaro che se tu prospetti a un imprenditore, anche cinese e facoltoso, di mettere 200 milioni per avviare questo percorso e non gli dai tutta una serie di garanzie, certo, sulla governance, insomma, anche se è difficile, anche se arriva il governo di Pechino, ti viene quasi l'idea che Berlusconi non abbia tutta sta voglia. Professor Ricci è qui con noi, è qui con noi, che osserva, ci guarda con entusiasmo. Sento Bellinazzo, mi viene in mente così, parlo a Bella Vista, professore, io non vi capisco, ma voi mi affascinate. Sì, grazie, beh, fatto, insomma, troppe nell'oro, tutti, io ho capito adesso tutti i segreti, io c'ho un piccolo gruzzoletto e già Marco già mi ha spiegato dove metterlo, dove fare. Però speriamo che abbia spiegato bene, perché nell'ultimo mese sto gruzzoletto è diventato metà. È un segreto tra me e lui. Ti segnala, almeno tu l'abbia comprato delle cose. No, è sotto il materasso. Ah, beh, il materasso non sbagli materasso mai. Scusa, l'indirizzo di casa, per capire questo materasso come si trova. Adesso ci racconta di un viaggio in Kenya nella fucina dei più grandi fondisti e mezzofondisti del mondo, Dario Ricci. Però Salvatore, provincia di Forlì, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'opportunità, grazie alla convocazione. Scusate, io ho sentito una cosa una mezz'oretta fa nella vostra trasmissione che mi ha fatto sobbalzare. Sobbalzare. E cioè che nel settore ospiti dello Juventus Stadium l'anno scorso staccavano le teste ai bambini. Cioè, no, io non so come voi possiate permettere bambini, senza commentare di una cosa del genere. Se questo è l'antipasto, non oso pensare, io sono tifoso del Napoli, cosa ci aspetta come spettacolo umano sabato sera? No, allora scusate, se qualcuno ha detto la testa ai bambini, chiedo scusa io, perché intanto ormai una volta di più, una volta di meno. No, le teste ai bambini assolutamente no. Credo che ci siano stati, un anno fa ci sono stati degli scontri. No, ma sì, ma a livello di seggiolini e danni alle cose. Ecco, questo è quello che mi adesso cito a memoria, cerco su io internet. Io il bilancio delle vittime. Non lo ricordo, ma non. Non c'è credo atti di vandalismo nel settore ospiti, se non ricordo male. Sì, ecco, io Napoli, atti di vandalismo nel settore ospiti. C'erano state dei. Ma qui dei io ribadisco quindi ancora il concetto: la battaglia contro l'inciviltà deve essere di tutti, non è chi ha rotto cosa. Capisco che il tifoso di calcio si divide continuamente in una squadra contro un'altra, ma qui un vandalo tifoso della Roma, del Napoli, della Juve, del Torino, di qualsiasi altra squadra, è un vandalo vale punto uguale, basta. Un vandalo punto e basta, no? E quindi le persone per bene che anche tifano per la sua squadra si devono dissociare. Io mi sembra una roba talmente no, che poi se assolutamente se no, questo se qualcuno ha detto teste, per carità, non ci mancherebbe altro, le teste se speriamo che non vengano mai toccate. E poi alla fine, se le premesse sono queste, vedi che ci meritiamo gli insulti, cioè l'insulto di non poter andare a vedere la tua squadra in trasferta. Ma poi adesso la FIGC non ha aperto un altro di quei tavoli famosi o famigerati che dovrebbero farsi carico in qualche modo anche di trovare soluzioni a questo problema, svuotamento degli stadi, eccetera, eccetera, scommesse, eccetera, eccetera. Tavoli troppo ampi, secondo me, perché poi non si arriva a niente. Vediamo. No, ma io allora a me sembra complessivamente che ci sia, non mi ricordo quando ne parlavamo, ieri o l'altro ieri, che ci sia complessivamente un miglioramento del clima attorno agli stadi come esperienza. Abbiamo avuto degli episodi dei quali si è parlato molto di discriminazione, di razzismo recentemente, ma mediamente il clima attorno agli stadi è migliorato, lo dico anche a caro prezzo, perché è pieno di squalifiche, è pieno di divieti. Già la testa del tifoso per me nasce come una cosa non particolarmente liberale, perché insomma, se io ho la fedina penale pulita e voglio andare a vedere la partita anche all'ultimo testa momento, del tifoso per me è stato un'idea idiota. Cioè, un'idea che non ha portato a nulla. Secondo me è un'idea abbastanza liberticida. Che poi alla fine, in mezzo a tutta una serie di divieti... Che cosa ha fatto? Ha allontanato gente normale che voleva andare a vedere la partita di calcio e che non aveva nessuna voglia di far schedare se stesso o i propri congiunti. Quindi... Uno prima diceva Rubinetti sulle teste dei bambini, ci scrive Sergio. Rubinetti sulle teste dei bambini, quindi se questo è stato detto, assolutamente no. Ma adesso non è il caso di riaprire questa cosa qui, insomma, il discorso che facevamo prima, insomma, esiste la civiltà ed esiste l'inciviltà, e questa è indipendente dai colori di una sciarpa o di una maglia, quindi da questo punto di vista veramente almeno questa risparmiamocela. Senti Dario, cosa hai fatto in Kenya? Sei stato in Kenya, Pardo? No. Ecco, dopo una volta però vieni. Ho visto le tue foto su Facebook, sì, giorno 1, sì. Giorno 2. Sì, sì, tu non sei stato da Briatore in Kenya? No, no? non sono stato a Malindi. Sono stato un po' fuori dai circuiti turistici. Due o tre giorni potevi fare. Allora non ci siamo trovati con le date. Due tartine. No, sono stato dalle parti di Eldoret, che è la capitale di un altro Kenya, cioè la capitale della grande maratona. Eldoret, Kapsabet, Kapagat, qui gli altipiani tra i 2000 e i 3000 metri dove corrono tutti. Dove corrono, sì, ti alzi alle 6 del mattino e già e vedi corri. Gente ai lati delle strade che comincia a allenarsi in modo clamoroso. Ci guardate, Ma va bene anche così, insomma, già sto a dieta, adesso questo sarebbe un ulteriore trauma, anche se velocizzerei forse il processo. Ma sì, corrono perché si allenano, cioè è lo sport nazionale, la religione nazionale, sì, la sì, corsa. Sì, direi in quella zona soprattutto, anche perché la corsa è la grande occasione di crescita e riscatto sociale. Certo. Vincere New York, incassare tra premi ufficiali e contratti $1 milioni, e quindi puoi immaginare, no Pier? Cioè quello che ha rappresentato il calcio nelle favelas del Brasile o in altri modi. Del mondo, in molti altri no? posti del mondo. Esattamente. Sì. La cosa interessante che magari non tutti sanno è che in qualche modo a dare il metodo a questo grandissimo talento che i keniani già avevano di loro e che avevano espresso fino all'inizio degli anni 90, soprattutto su pista fino ai 10.000, è stato principalmente un allenatore italiano, Gabriele Rosa, bresciano, che oggi è il fulcro del Rosa Nike Team e che di fatto 25 anni fa è andato giù in Kenya e ha cominciato a organizzare questi training camp, soprattutto rispettando la cultura locale, lasciando lì in luogo i grandi campioni piuttosto che costringendoli alle emigrazioni in Giappone o negli Stati Uniti. Ecco, da lì è nata una oggi il Kenya vince l'86% delle maratone legale. Che si svolgono al mondo. Vi faccio sentire anche il contributo importante, quello di Stanley Biwott, che è il vincitore dell'ultima maratona di New York e il grande favorito anche per Rio de Janeiro per le Olimpiadi. E c'è De Luca che lo manda. Yeah, you know, in Kenya, many of the people are talented. Whenever they train, ecco, ci spiega Stanley che appunto il talento è diffusissimo in Kenya e che la corsa fa parte proprio della cultura popolare. Come dicevamo, è la grande occasione anche per l'ascesa sociale. Biwott che adesso ha nel suo mirino la maratona di Londra ad aprile, che è la prova di qualificazione per tutti i keniani, e poi Rio sicuramente. Vediamo come andrà quella maratona. Ci ha spiegato, nel caso di un successo potrebbe saltare New York, dovesse invece non arrivare quest'oro tanto atteso e pronosticato, potrebbe tentare il bis invece proprio a New York. Abbiamo sentito, se c'è l'opportunità di ascoltare questo contributo, anche proprio Gabriele Rosa, che ci ha inquadrato un po' tatticamente quella che sarà la maratona di Rio. Oggi abbiamo visto prima tutto un gruppo molto, molto organizzato, molto strutturato, che è importante nell'allenamento della maratona. Il leader del gruppo è Stanley Biwott, che ha fatto una progressione su 6-2000 molto importante. Era un allenamento testo un pochettino, ma non per fare dei tempi incredibili, lui correre molto più forte, ma sarebbe stupido fargli sprecare energie per andare più forte. Questo ragazzo ha vinto New York, è uno dei favoriti per le Olimpiadi, si dovrà qualificare, ci saranno i passaggi, c'è speranza che non si infortuni, è un ragazzo che ha già corso 2-4, può correre anche 2-3, però le Olimpiadi non sono mai una gara tecnicamente molto veloce, è una gara tattica. Che gara si aspetta a Rio? Per Biwott è meglio una gara veloce, in modo tale che non ci sia una volata finale tra lui e gli occhi fresco, perché chiaramente è più veloce. Normalmente gli etiopi sono un po' pazzi e fanno gare un pochettino scriteriate. Vediamo. Insomma, la goduria è stato quello di vedere questi, questi atleti dal vivo allenarsi. Beh, ragazzi, 250 km. Io sono già stanco, già qui, ecco, bravo. Che parliamo di corsa, ecco, già... Ma tanto Giorgio ci chiama al caffè, quindi siamo arrivati per la andiamo, andiamo a mangiare qualcosa. Mi è venuta fame dopo tutti gli insulti che sono piovuti oggi. In ma ogni guarda, direzione, bambini. Poteva andare bambini. Anche bene, sì, Juve, vabbè. Napoli. Allora, tanto domani torniamo alla stessa ora. Grazie Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Salutaci cinesi, mettici una buona parola. Assolutamente. Ma sì, ma andiamo a correre in Kenya, ma andiamo a Ponza. Andiamo a correre a Ponza. Ma che a correre? Ciao Giorgio De Luca, nostro autore. Federico Binda in redazione, Andrea Roccabelli in regia, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.